Radio Wombat Senza Frontiere tutti i lunedì alle 14 e in replay mercoledì alle 17 e venerdì alle 9 la mattina. Una nuova corrispondenza dalla Spagna, questa volta un'intervista a Francesca, Ecologistas Nación, che è appunto una confederazione di più di 300 gruppi ecologisti distribuiti in tutto il paese, in tutta la Spagna. L'inserto musicale è un pezzo di Tremenda Jauría, si intitola Semilla, tratto dal loro ultimo lavoro, in cui ospite Fermín Muguruza. Buongiorno a tutti e a tutte, siamo con Francesca che ci spiega un po' che cos'è Ecologista Nazionale. Ciao Francesca. Ciao. E niente, io comincerei subito con le domande. Se ti presenti, come ti chiami, che fai, come mai stai in Ecologista Nazionale? Allora, il mio nome è Francesca Ricciardi, sono un'avvocato specializzata in migrazioni e diritto d'asilo. Lavoro qui a Madrid da almeno 4 anni, sono attivista in Ecologistas en Acción e in altri spazi, diciamo, che mantengono vincoli attivi con le migrazioni, l'anticapitalismo, il femminismo e l'ecologia. Sì, senti, quindi ci spieghi un po' Ecologista Finazione, come nasce, chi siete? Sì, allora, Ecologistas en Acción è un'organizzazione confederale nata, diciamo, 20 anni fa. Infatti, giusto quest'anno abbiamo celebrato il nostro anniversario. E si tratta di come dicevo prima, una confederazione di diversi gruppi ecologisti, più di 300 gruppi ecologisti che fanno parte, diciamo, di Ecologistas en Acción, che verso gli anni 80-90 hanno deciso, diciamo, di unirsi, visto che ci si rendeva conto che il movimento ecologista era diviso in numerose organizzazioni, che rendeva abbastanza complicato raggiungere obiettivi concreti. Ed è per questo che, diciamo, buona parte del movimento ecologista ha deciso di unirsi, alcuni gruppi hanno preso l'iniziativa di, ecco, appunto, cioè di unirsi in quello che poi, diciamo, un'organizzazione più grande, che è Ecologistas en Acción, e diciamo che l'aspetto positivo che ne è venuto fuori da questa diversità di organizzazioni implicate, diciamo, sotto gli stessi principi, è che, appunto, cioè, siamo riusciti ad arricchire di gran lunga le diverse organizzazioni e confederazioni che fanno parte adesso del collettivo, e ha reso anche più forte ed efficace il movimento ecologista stesso. Senti, proprio per parlare di queste confederazioni, eccetera, ci puoi spiegare un po' come funziona a livello statale, di Stato spagnolo, e come funzionano queste confederazioni? Perché magari a un pubblico italiano non è così facile da capire proprio come è organizzato, no, lo Stato spagnolo. Sì, diciamo che questa è piuttosto un'organizzazione abbastanza particolare di Ecologistas en Acción, che tra l'altro è stata voluta proprio per poter mantenere l'indipendenza, l'autonomia e il lavoro locale dei diversi gruppi che conformano l'organizzazione. È stata proprio una scelta per poter garantire che si potesse continuare a lavorare in temi che sono locali e al tempo stesso statali, attraverso un'unica organizzazione. Ecologistas si organizza, cioè è una confederazione composta da diversi gruppi che si trovano su tutto il territorio statale, anche se le decisioni vengono poi finalmente prese in assemblea, che è l'organo massimo in cui partecipano tutti i diversi gruppi che formano parte del collettivo. Cioè, si celebra un'assemblea una volta all'anno in cui vengono decise le linee strategiche dell'organizzazione, vengono decise quelle che definiamo le campagne prioritarie per l'anno. E vengono, diciamo, ripresi, magari modificati se ce n'è bisogno, i principi ideologici. E il fatto stesso che dicevamo prima, che l'organizzazione sia composta da tanti diversi gruppi presenti in diverse zone del territorio, ciascuna con le proprie caratteristiche, identità e rivendicazioni, permette che l'organizzazione nel suo complesso sia un movimento ampio e diverso, tanto nelle lotte che diciamo, portiamo avanti, così come nelle rivendicazioni, no? Che vengono spinte dalle diverse, dai diversi gruppi locali. Questo è un po' quel modo in cui funziona, diciamo, l'organizzazione. Senti, Francesca, qual è il vostro programma in generale? Il programma di spiegare il programma, diciamo Perdonate. che ci piace definirci come un'organizzazione attiva nell'ecologismo sociale. In primo luogo abbiamo una critica, portiamo avanti una critica del sistema attuale economico capitalista, che è anche una delle principali cause della distruzione e del deterioro del medio ambiente e che ha con sé anche una conseguenza relativa al modo in cui si distribuisce la ricchezza, no? E ci rendiamo conto, cioè, che non è possibile, cioè, che per poter riuscire a vivere tutte le persone presenti sulla terra in maniera degna, non vi possono essere ingiustizie sociali né un consumo eccessivo da parte di una piccola parte della popolazione, che tra l'altro la maggior parte delle volte è a danno del resto delle persone e del pianeta. Un pianeta che tra l'altro consideriamo che abbia ovviamente delle risorse naturali che sono finite e ci stiamo di fatti avvicinando a quello che definiamo il collasso delle risorse naturali, il collasso di quello che è ciò che ci può offrire l'ambiente e la terra. E questo è un poco, diciamo, ciò che ci guida principalmente nelle diverse campagne che poi portiamo, che poi diciamo, difendiamo, no? Perché è proprio lo stesso sistema che obbliga la maggior parte della popolazione a vivere in condizioni di povertà e miserie. E ovviamente questo ha delle conseguenze dirette su il modello di sfruttamento da parte di determinati paesi, sulle risorse naturali che si trovano in altri paesi, così come ha dei vincoli ovviamente diretti anche su quello che è la situazione di determinate persone, e ci riferiamo soprattutto a donne, popolazioni indigene e persone migrate, no? E proprio per questo, cioè, diciamo che il modo in cui Ecologistas en Acción agisce ovviamente in diversi temi che possono essere la biodiversità, il cambio climatico, acqua, rifiuti, l'ambiente marino, trasporti, ecofemminismo, politiche commerciali, migrazione, globalizzazione. Tutto l'ambito, cioè tutte queste diverse aree in cui agiamo, in cui operiamo, diciamo che vengono rette un poco dai principi dell'ecologismo sociale che ho appena spiegato. Ho capito. Senti, ho visto sul vostro sito che avete delle varie aree di intervento, ce ne spieghi un po'? Sì, un'altra delle forme in cui Ecologistas en Acción si organizza è che effettivamente vi sono diverse aree o commissioni di lavoro, per così dire. Anche se è vero che non sono presenti in tutti i territori, perché ad esempio vi sono dei gruppi locali che sono molto piccoli, quindi c'è le persone che vi partecipano, diciamo che fanno un po' di tutto, portano avanti quei temi in cui sono più interessati o che, dipendendo un poco anche dalla zona in cui il gruppo locale si trova, diciamo ha più interesse, no? E a livello statale, in ogni caso, esistono delle aree come ad esempio agroecologia, acqua, cambio climatico, antiglobalizzazione, educazione, ecofemminismo, trasporti. Sono alcune dei gruppi di lavoro, ci piace definirli un poco aree, gruppi di lavoro, in cui appunto, cioè, si divide l'organizzazione in modo tale che poi anche alle nuove persone che si avvicinano a Ecologistas en Acción, che vogliono far parte dell'organizzazione, dipendendo un poco dall'interesse che ciascuna ha, può avere, diciamo, un'idea un po' più chiara su che temi gli piacerebbe di più lavorare, no? Certo. Senti, e le vostre pubblicazioni come funzionano? Sia la web che la carta, insomma, avete un cartaceo anche, no? Sì, abbiamo una rivista che si chiama Ecologista, la rivista si pubblica 4 volte l'anno, ci sono 4 numeri, partecipano sia persone, attivisti, persone di Ecologistas en Acción, così come persone, diciamo, che anche se non sono del collettivo, però che riteniamo che, insomma, il team della rivista ritiene che possa essere interessante appunto che partecipino su un determinato tema. La rivista è anche il modo in cui l'organizzazione ha parte, cioè riceve parte del finanziamento, perché le persone socie ricevono la rivista a casa, appunto come dicevo prima, quattro volte all'anno. Questa, diciamo, è più la parte in cartaceo che produciamo, anche se c'è tutta un'altra parte di lavoro che svolgiamo quando, ad esempio, presentiamo dei dossier, delle investigazioni, dei report che poi vengono pubblicati e vengono diffusi, diciamo, sempre come pubblicazioni di Ecologistas en Acción. E invece la parte della pagina web, diciamo che riprende un poco tutta l'informazione più rilevante dei diversi gruppi locali, delle diverse aree, come possono essere ad esempio comunicati stampa o posizionamenti dell'organizzazione quando si verificano determinati fatti sui quali commentiamo, no? Certo. Senti, ho visto che avete molte campagne attive. Quali sono le più importanti? Se puoi dirne qualcuna, insomma. Allora, come dicevo prima, ogni anno in occasione dell'assemblea statale votiamo le campagne che riteniamo, diciamo, debbano essere le prioritarie. Questo significa che l'organizzazione, cioè tutta, sì, l'organizzazione nel suo complesso si dedicherà specialmente in queste campagne, però non sono le uniche su cui si lavora per il resto dell'anno. Per quest'anno, visto un poco anche, diciamo, il movimento politico e sociale in cui ci troviamo, le campagne che sono state scelte sono una che abbiamo chiamato Stop Allevamento Industriale e un'altra sul turismo e la gentrificazione. Le ragioni, cioè, sono state presentate varie proposte e queste due sono, diciamo, quelle che sono risultate le prescelte, però, come dicevo prima, ci sono tante altre campagne che le diverse aree diciamo, lavorano, come ad esempio adesso molto attiva, cioè molto attiva, molto forte anche la campagna su migrazioni ambientali. E stiamo lavorando anche sulla campagna, ora questo oramai da tanti anni, facciamo parte della campagna europea contro i trattati di commercio e gli investimenti, c'è un'altra campagna attiva che è per la tutela dei difensori dei diritti umani, cioè ogni area poi cerca di mantenere diciamo un interesse particolare in determinati temi, anche se poi nell'organizzazione si è deciso le campagne prioritarie, no? Che dicevo che erano quella sul turismo e contro l'allevamento industriale. Al balcón de la memoria, el vértigo no impide descender hacia el abismo, confrontando realidades y espejismos que se autolegitiman bajo una falsa victoria. Lagunas sepultadas en el tiempo, silencios que ensordecen aflorando los recuerdos que un día enterraron en un libro cerrado, contando la versión que no condena su pasado. Cuánta historia escrita en las paredes de millones de cocinas, tejiendo resistencia día a día, haciendo de lo cotidiano nuestra trinchera, sabiéndonos fuertes y más entre compañeras. Vamos a gritar nuestra parte del cuento que quieren encerrar en jaulas de cristal. Pero la sororidad ya no la pueden enterrar por las que fueron y las que vienen detrás. Quienes manchan sus manos con sangre del pueblo que defiende su tierra, ni con toda la lluvia del norte van a ahogar este grito de guerra. ¿Cuántas balas paran una idea? se esconde una herida. Enterraron nuestros corazones, olvidaron que eran semillas. Sobre nuestras cabezas solamente brillan las estrellas. Zauri horretatik argia bada, banator eta banoa, iparrata egoa, tremenda jauriarekin dator leloa. Zenba kristal, zapai hautsiak, buruanean izan biztiratxuak, izan zireta datotzen engatek. Quienes manchan sus manos con sangre del pueblo que defiende su tierra, ni con toda la lluvia del norte van a ahogar este grito de guerra. ¿Cuántas balas paran una idea? ¿Cuántos golpes esconde una herida? Enterraron nuestros corazones, olvidaron que eran semillas. Sobre nuestras cabezas solamente brillan las estrellas. Pero el pueblo que defiende su tierra es como la sal que reseca en las salinas cuando todo se ha evaporado ya. Con muchas más preguntas que certezas, pero con toda el ansia de reventar sus rejas, de reinventar las quejas, mirando cara a cara la derrota, llenando de tiritas nuestras alas rotas. Llenando de tiritas nuestras alas rotas. Quienes manchan sus manos con sangre del pueblo que defiende su tierra, ni con toda la lluvia del norte van a ahogar este grito de guerra. ¿Cuántas balas paran una idea? ¿Cuántos golpes esconde una herida? Enterraron nuestros corazones, olvidaron que eran semillas. Sobre nuestras cabezas solamente brillan las estrellas. Mi viene la domanda, insomma, perché siamo in periodo elettorale qui in Italia fra un mese, insomma, e la faccio. Ecologista in Azione mantiene o ha mantenuto relazioni con i partiti politici? Come funziona questa cosa? Sì, mantenere relazioni con i partiti politici, sì. Con l'obiettivo chiaro di influire, cercare di influire nelle politiche attuali per poter garantire e un miglioramento, no, della legislazione e che questa possa essere in linea con le nostre rivendicazioni. E in ogni caso Ecologista in Azione è un movimento sociale e per questa ragione rimane completamente indipendente dai partiti politici. Difatti quando ci avviciniamo in una fase elettorale abbiamo dei protocolli stabiliti, decisi in assemblea per cui non ci possiamo riunire con gruppi politici, non possiamo partecipare a riunioni, anche per evitare che che possano gli stessi partiti politici possano strumentalizzare, no? lo stesso movimento. Ciò nonostante, soprattutto in fase preelettorale, lavoriamo molto nell'elaborazione di programmi, e tanto ad esempio stiamo parlando delle prossime europee, abbiamo presentato quelli che sono i nostri punti principali che consideriamo importanti da tenere in considerazione per i futuri e le future persone che verranno elette al Parlamento europeo, ad esempio, o come qui in Spagna ci saranno a breve le elezioni tanto statali come regionali, lo stesso, cioè presentiamo quelli che sono i nostri programmi, il nostro programma sociale per diretto ai partiti politici con delle linee da seguire. Ho capito. Senti, un po' ce l'hai detto col discorso del giornale, no? Però ci sono altre forme con cui Ecologistas en Acción si finanzia? Sì, diciamo che la parte principale del finanziamento dell'organizzazione, più o meno un 60%, proviene da sovvenzioni pubbliche. E quelle che riceviamo vengono da organismi pubblici, visto che non accettiamo finanziamento da parte di enti che consideriamo poco etici, né da multinazionali o da altre organizzazioni che operano in settori che possano avere un impatto sociale e ambientale. Questa è una parte, diciamo, la parte principale del finanziamento che riceviamo. E un'altra parte del finanziamento, che è, diciamo, minima, proviene dalle quote dei soci. Anche perché in questo senso, cioè, le diverse federazioni che compongono l'organizzazione sono quelle che contribuiscono all'organizzazione statale attraverso il pagamento di una quota che dipende dal numero di soci che fanno parte di ogni confederazione, no? E diciamo che questo rappresenta più o meno il 5% delle entrate di Ecologistas. Una buona parte del modo in cui ci finanziamo è anche attraverso la vendita di libri. Abbiamo una casa editrice che si chiama Libros en Acción, attraverso la vendita anche della rivista di cui ti parlavo prima, i corsi di formazione o altri materiali. Questo sì che rappresenta una parte importante del finanziamento. E infine vi sono le donazioni, però ovviamente questo dipende un poco da ogni anno, no? Certo. Senti, ti faccio una domanda semplice. Pensa che nella mia città vogliono fare un aeroporto, per esempio, distruggerà non so quanti ettari di terreno, oltre il problema dell'inquinamento acustico, oltre il problema eccetera eccetera. Ecco, come mi potete aiutare? Come può aiutarmi Ecologistas en Acción? Beh, ovviamente dipende molto dal tema, no? Cioè da qual è la questione che può preoccupare le persone, i vicini. E in primo luogo, cioè, la cosa più opportuna sarebbe mettersi in contatto con il gruppo locale, perché probabilmente, o forse no, però magari, cioè, già stanno un poco lavorando sul tema. E inoltre c'è un servizio giuridico disponibile, ovviamente gratuito, che può anche essere utile ovviamente in questi casi, perché può aiutare, ad esempio, cioè, se sei una persona, cioè un particolare ha un dubbio, però si sta consultando anche con altre persone in un'altra associazione, si può fare questa consulta giuridica per poter vedere se vi sono effettivamente delle disposizioni legislative che vengono violate. E in ogni caso, dipendendo un poco da quello che è il tema, diciamo, che preoccupa, la cosa più opportuna sarebbe, diciamo, contattare con l'area che si può considerare che possa avere più, diciamo, più capacità di influire o di aiutare per avere una maggior conoscenza del tema, no? Per così dirlo. In ogni caso, cioè, quasi tutte le richieste, diciamo così, particolari di vicini, persone che vengono a conoscenza di un progetto che sanno o hanno dei dubbi se può avere dei danni ambientali, vengono, la maggior parte delle volte vengono, diciamo, ridirezionate attraverso l'organizzazione locale. Se nel posto in cui vivi o dove pensi che si sta verificando un danno ambientale non c'è il gruppo locale di Ecologistas en Acción, allora la cosa migliore sarebbe contattare, diciamo, con il gruppo di Madrid, che poi è chi, anche spiegandogli un po' la questione, può diciamo, indirizzare il tema a persone concrete o a gruppi locali o anche ad altre organizzazioni che già stanno lavorando sul tema, no? Certo. Senti, io sono un po' fissato per le formazioni professionali, però è un argomento che mi interessa tanto, il turismo. Ho visto che, l'hai detto anche tu prima, no? Una delle campagne di quest'anno è questa col turismo. Ci spieghi un po' magari la campagna e perché la preoccupazione di ecologista e finanziario? Perché il turismo è un problema ecologico? Sì, questo è un tema su cui diciamo abbiamo siamo stati parecchio tempo, cioè ci avevamo pensato parecchio tempo nel momento in cui dovevamo prendere la decisione se fosse, diciamo, la campagna prioritaria per quest'anno. I nostri dubbi venivano dal fatto che vi sono già altre organizzazioni, già altri movimenti qui in Spagna, e in particolar modo a Madrid, nelle grandi città, no? Madrid, Barcellona, Valencia, che lavorano già sul tema. Però sì che vedevamo che mancava un poco una parte, diciamo, dell'ecologismo sociale. E il tutto viene dalla riflessione che abbiamo fatto sul turismo, che come lo conosciamo oggi è un'attività economica che ha un ritmo di crescita imparabile a livello internazionale, e le conseguenze del turismo di massa sono devastanti per il territorio, non solo a livello, cioè tanto a livello sociale, che ovviamente è importantissimo, bensì anche a livello ovviamente ambientale, no? Perché causano la distruzione, il cambio di determinate zone territoriali, e ciò sempre tenendo in considerazione che creano tra l'altro benefici solo per determinati strati che sono già ricchi della società. Infatti stavamo un poco pensando a quello che è l'impatto ambientale del turismo per farci un'idea delle conseguenze a livello ambientale, no? Cioè nel 2017 la Spagna ha ricevuto 82 milioni di turisti. Ogni milione di turista, se consideriamo che diciamo, rappresenta 11 milioni di litri di combustibile, rappresenta un consumo di 300 milioni di litri d'acqua, 300 milioni di litri di acque residuali e 25 milioni di chili di emissioni di CO2. Cioè questo, diciamo, è un impatto chiaramente ambientale che molte volte si sottovaluta quando si pensa al turismo, sì. Si pensa la maggior parte delle volte a quelli che possono essere i benefici, la creazione di posti di lavoro, però ovviamente c'è una tassa di tanto di emissioni di CO2 come di consumo di, ad esempio, di litri d'acqua, come ad esempio consumo di combustibile che è notevole, che non è sicuramente sostenibile, no? A questo poi bisogna aggiungere quelle che sono le conseguenze dirette sul territorio, come dicevamo prima, no? La distruzione ad esempio degli spazi rurali, la creazione di infrastrutture che non sono diciamo in linea con l'ambiente, gli spazi in cui sorgono, e anche la distruzione di determinati settori economici come possono essere piccoli negozi familiari sostituiti sempre di più da grandi imprese che sono quelle che, diciamo, possono avere un maggior impatto sul turista, no? Il turismo di massa, tra l'altro, ha anche delle conseguenze dirette nei quartieri, diciamo, popolari in cui vivono le persone, e conseguenze come possono essere ad esempio l'aumento dei prezzi degli affitti. Cioè dove prima vi erano case magari, diciamo, anche in condizioni, infrastrutture, diciamo, deteriorate, ciò che stiamo vedendo che sta succedendo è che si utilizzano, cioè vengono comprati gli edifici interi da grandi fondi di investimenti, vengono ristrutturati gli edifici, ovviamente tutto ciò è in linea, diciamo, anche con cambi che si possono verificare nel quartiere. Ovviamente il prezzo dell'affitto diventa molto più alto, il che ha delle conseguenze sulle persone che vivono nel quartiere, perché si vedono obbligate a dover abbandonare, diciamo, il quartiere in cui avevano vissuto tutta la vita per non poter più pagare un affitto che è diventato spropositato. E vengono, cioè si distrugge, no? Un poco il tessuto sociale. Queste, diciamo, sono un poco tutte le considerazioni che abbiamo, che abbiamo fatto quando abbiamo pensato che fosse necessario, no? Anche noi, insieme ad altre organizzazioni che già lavorano sul tema, insomma, preoccuparci un poco di quello che sta succedendo nelle nostre città. Capito. Senti, ti faccio l'ultima domanda. Come posso partecipare, Necologista Sinasi? Come una persona può partecipare al vostro collettivo? Ci sono diverse forme in cui si può partecipare in Necologista Sinasi. Ad esempio, cioè, poi diventando attivista dell'organizzazione, se un giorno ti interessa, ti avvicini a uno dei gruppi locali nella città in cui vivi e ci saranno sicuramente delle persone e compagni di Ecologistas che ti faranno ti spiegheranno come funziona le aree in cui lavoriamo. E niente, questa diciamo che è una delle forme principali diventando attivista dell'organizzazione. Ovviamente questo dipende anche dalla disponibilità, dall'interesse di ogni persona. Ci sono anche altre forme, come ad esempio diventando socio dell'organizzazione con un contributo economico annuale, o ad esempio abbonandoti alla rivista Ecologista. Diciamo, sono tutte forme diverse in cui si può partecipare nel collettivo, e ognuno ovviamente è super importante. Ho capito. Va bene, Francesca, sei stata chiarissima, noi ti ringraziamo e ti auguriamo buona lotta. Grazie mille a voi, grazie. Finisce qui questa puntata, Senza Frontiere si prenderà una pausa di alcune settimane. Ciao ciao.